Bo, però stati lontano una roba marina. Comunque siamo a King Street, ciao, nel bel mezzo di Bristol, e abbiamo davanti a noi due situazioni interessanti impersonificate in due persone. Assolutamente, confermo su tutta la linea. Una è ciò, cappottino aragosta di lana cotta che andava prima di Madonna di Papa Don Piccio, guarda. A me mi sembra tipo la lana, come si chiama? Lana di Casentino. Lana cotta, fidati, social. Lana cotta, vabbè. Un cappottino e una pelli viola che pare uscita da Kiss Militia. Sì, sostanzialmente la 30 sorella, anni fa. È la sorella di Satomi. È la sorella di Satomi. E siamo all'Old Duck. E per la seconda sera di fila siamo arrivati all'ultima canzone della band, perché comunque sia c'è musica dal vivo che noi puntualmente perdiamo quasi in toto. E arriviamo all'ultima canzone. Ma che può scherzare davvero? L'ultima canzone è proprio noi si arriva e quelli smettano di suonare. Nemmeno ce lo facessero apposta. Se chi spara le gambe continuano. Però non smettono di darci le birre. No, quello bisogna riconoscere che bene ce lo danno. Anche in bicchiere di vetro invece di plastica probabilmente avverrà fra una mezz'ora. Chi lo ma sa? Vogliamo raccontare la fregatura che si è preso stasera a mangiare? Fregatura, se tu la voglio chiamare o no. E ragazzi, allora intanto ci hanno venduto una bracciolina per bistecca, ragazzi, fatta pagare il prezzo di un controfiletto in groppa, chiamato the ramp in English. Insomma, io direi che è stata una bella fregatura sostanzialmente. Guarda, per dei valdarnesi toscani abituati ai tagli buoni di vitello, in particolar modo di vitello, e siamo stati, come si suol dire, a farsi ammazzare dai boia, sostanzialmente. Io il prezzo non è stato esagerato, no, ma se si andava da frattaglia a fare sul prodotto si stava meglio. Si sbuffava da quante prelibatezze, non solo di vitello, allora, ma di stracotto, di cipolline di pollo, lampredotti, frippe e quant'altro. Ma il vino rosso, buono, sì, che era ma solo per quelle 4 o 5 o 6 vaschette, una boccia d'acqua. Io bevo una birra, e una birra, vero, insomma costava più l'acqua e la birra, bisogna dirla tutta, e si è fatto fenomeno. Se volevo pigliare lo spritz, aprilo qua su, perché in effetti io insomma ho 8 ore di birre, 8 ore di birre continue e mai fermate da prima di mezzogiorno, quindi prima di pranzo, sono arrivate a sostanzialmente dopo cena per loro, birre continue una dopo un'altra con le dovute pause e tutto. Bisogna riconoscere che la birra, vi garantisco, la vera annoia, un'estate della discorsi. Alla lunga la vera annoia. Assolutamente. A volte viene annoia anche prima di bere la prima, quindi insomma, a volte la birra è noiosa. La necessità di un cambiamento ci ha portato a un prezzo. Un prezzo. Prezzo 51-2 sterline. Per tutta la cena, tutto compreso. Compreso di spritz. Nemmeno troppissimo. No! Ma siccome si è mangiato una bracciolina, io mi sono un po' risentito di questa cosa. E meno male si è detto il vino, ragazzi. Ora la ciccia vabbè, ma il vino che lo lasciamolo a quando si torna a casa, perché viene a farci vino al suo è proprio da gnoccolo. Allora, sostanzialmente, se qualcuno capita a Bristol, venga in King Street, certo, al Lord Duck. Sì. Conferma anch'io. Ci siamo tornati anche stasera. Tuttora. E poi però vada a mangiare un lampredotto da frattaglia a figline. Venga sta meglio. Meno 2 giorni per me. Uno va a cena la sera avanti e il giorno dopo viene a King Street a Bristol. In maniera proprio totalmente materiale. Prende un treno come si è fatto noi a Milano la mattina, la sera a Bristol e si fa la serata. Probabilmente e poi la bisogna starci molto più tempo, farci un vissuto più lungo, ciò non toglie che si è preso la fregatura, via. La fregatura. Non ci giriamo molto. Sì, ma stiamo a parlare di consigli da a me mi sembra che sia venuto anche Cureggio con noi, eh. Cureggio e il Piastra, poi c'è il Marmitta, il Cardaia, il Ringhiera, Muso di Gomma, Seghine, sarà tutti veramente. Cioè non toglie. Guarda, nel fabbisogno giornaliero di una vacanza ci va anche queste cose. Forse è meglio mangiare un paninazzo da un burgeraro che ti riempie di più e comunque se tu sei consapevole. Ora c'è questi due si sono messi a sedere accanto, sì, no? Rispetto a Paolo Sanno e conosce anche Cureggio. Hi, good evening. Good evening. Allora qui con noi abbiamo Enjoy. Abbiamo trovato due nuovi amici. Anche giovanotti, diciamo. Sì. E qui da ora poi vediamo come evolve la situazione. Perché questi probabilmente si sono magnati un pezzo di qualcosa di strano. E si fa chi sta peggio. Vediamo se questo voltone di Bristol hanno a che fare con due vecchie volpi di Montevallo. Vediamo che succederà. Via, sì, alla prossima. Tra non molto. Siamo Rico, aspetta.